la verità, compagno, la trovi dentro là, oltre quei cancelli dove un orologio segna l'ora in cui cessa la libertà, la libertà, la libertà, la libertà, la libertà, la libertà, nessuno ti regalerà, la libertà, la libertà, la devi conquistare. La verità, compagno, puoi leggere al mattino, scritta sopra i muri, da mani proletari, stanchi d'aspettare il sole dell'avvenire. La libertà, la libertà, la libertà, la libertà, nessuno ti regalerà, la libertà, la libertà, la devi conquistare, la libertà, la libertà, nessuno ti regalerà, la libertà, la libertà, la devi